Siamo in collegamento telefonico con Patrizia Martello, presidente dell'Accademia Mondiale della Poesia, per la 17ª giornata mondiale della poesia dal titolo Siamo fatti per l'infinito al Teatro Filarmonico a Verona il 24 marzo. Patrizia, benvenuta. Grazie, grazie, un saluto a tutti. Allora, raccontiamo un po', intanto per chi non conoscesse, visto che siamo alla 17ª edizione, la giornata mondiale della poesia, la raccontiamo? Volentieri, in due parole. Allora, diciamo intanto che l'Accademia Mondiale della Poesia è nata ancora nel 2001, è nata sotto l'egida dell'UNESCO, che ha proclamato per ogni anno la Giornata Mondiale della Poesia il 21 di marzo. Noi la celebriamo il sabato più vicino a questa data. Quest'anno scade il 24 di marzo. Da allora, cioè dal 2001, l'Accademia Mondiale ha sempre celebrato la Giornata Mondiale della Poesia, ogni anno con un argomento nuovo. Quest'anno l'argomento è l'infinito, siamo fatti per l'infinito, perché vogliamo celebrare il 200º anno da quando è stata scritta da Leopardi la poesia L'infinito. Quindi è una cosa un po' particolare perché invece di celebrare un poeta, un avvenimento, eccetera, celebriamo proprio questa poesia che è importante in tutto il mondo. Sì. Il 21 marzo scelto dall'UNESCO, a cosa corrisponde? Corrisponde appunto alla celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia. Ma celebra una data, una ricorrenza in particolare? Ah, Niente in ok. particolare, però come viene stabilito per tante cose, le giornate mondiali, per tanti argomenti, per tanti aspetti e celebrazioni, appunto questa della poesia è il 21 di marzo. Ok. Questa declinazione da Leopardi, siamo fatti per l'infinito, cosa sta a significare? Allora, sta a significare semplicemente che siamo limitati noi, ma siamo fatti per un qualcosa di più. E quindi per uno sguardo più ampio, più avanti, con un orizzonte più esteso. E in questo senso, proprio nel pomeriggio alle 5, ci sarà un dibattito, perché noi come Accademia cerchiamo proprio di approfondire le tematiche. In questo caso un approfondimento sarà appunto su questo tema e sono chiamati a parlare dell'infinito e del siamo fatti per l'infinito 10 poeti che vengono un po' da tutti i paesi del mondo, da vari paesi del mondo. Ecco, come sarà articolata la giornata? Allora, la giornata è in due fasi, diciamo. La prima si svolgerà il mattino alle 11, sempre in Sala Maffeiana a Verona. In cui ci sarà la premiazione di un concorso di poesia per immagini. È la prima volta che lo facciamo, anche se tutti gli anni abbiamo sempre fatto un concorso, soprattutto per le scuole, anche questo è dedicato in particolare alle scuole, in cui una poesia viene abbinata ad un'immagine ed è un concorso che viene fatto su Instagram. Devo dire che abbiamo ricevuto tantissime adesioni, tantissime poesie su immagine da persone di tutte le età, entusiaste di questa novità, chiamiamola così, e comunque tanti ragazzi delle scuole. Questo ci fa sempre tanto piacere. Rimanendo a questa edizione, la scelta degli autori che avete chiamato, su cosa si è basata? Dei poeti, Sì, vuoi dire? sì. Sì. Sul fatto che noi come Accademia abbiamo parecchie collaborazioni con varie accademie e associazioni culturali poetiche in vari paesi, quindi conosciamo le valenze di questi poeti che abbiamo tutti chiamato. Ecco, questi ci saranno al pomeriggio. Così volevo dirti la seconda fase della giornata, che è Sì. proprio il pomeriggio, in cui ci sarà questa tavola rotonda di cui parlavo, e poi anche una chicca particolare perché l'infinito, la poesia, è stata musicata da Nuti e e ci sarà una partecipazione straordinaria del tenore Fabio Armiliato. Quindi il pomeriggio alle 5 si aprirà con questa chicca particolare, prima del dibattito sull'infinito. È una cosa che è piaciuta molto, spero che piaccia poi a tutti. Considerato che siamo arrivati alla 17ª edizione, volevo sapere da te anche come si è sviluppato, come si è evoluto, come è cambiato questo festival, questa festa, questa giornata. Beh, in 17 anni tante cose sono state fatte, tanti argomenti sono stati affrontati, abbiamo celebrato molti poeti e anche l'anno scorso è stata una cosa molto particolare, il dibattito particolarmente incentrato su una poesia giapponese che si chiama Tanka, che ha avuto tanto successo anche tra i ragazzi. Comunque cerchiamo di dare sempre maggior spazio ai ragazzi, ai giovani che secondo me trovano veramente la possibilità di esprimersi. E non ci aspettavamo una partecipazione così importante, invece ogni anno è una sorpresa. E ci dici anche dell'attività durante l'anno dell'Accademia? Sì, volentieri. La nostra attività principale è l'organizzazione di questa giornata. Certo. Però cerchiamo anche di attivarci in qualcosa di diverso e di importante lo stesso. Per esempio, proprio a novembre dell'anno scorso a Roma abbiamo partecipato all'inaugurazione di una cattedra per la pace all'Università 3 di Roma, una cattedra per la pace che diciamo, ha voluto essere istituita con un'altra associazione del Kuwait a cui noi siamo collegati, che l'ha promossa. E per me è stata una cosa importante perché cioè dare questo segnale di pace attraverso la poesia è un qualcosa che passa gli animi, ecco, che colpisce e che può fare riflettere. Ecco, questo è stato un altro tipo di attività. Cercheremo adesso di fare un'altra cosa importante con la pubblicazione, spero di riuscire a farlo, la pubblicazione di un testo di poesie dedicate alla speranza che vogliamo portare negli ospedali, nei luoghi di sofferenza, ecco, e quindi dare un po' uno sprazzo di luce anche a chi soffre. Patrizia, ecco, a tuo giudizio, qual è cosa rappresenta oggi la poesia? Rappresenta quello che non dovremmo mai perdere, rappresenta quello che dovremmo tutti essere capaci di cogliere. Io dico, ecco, la poesia è la capacità di farsi colpire da qualcosa, di fermarsi un momento a riflettere anche sulle piccole cose, ma di capire che esistono. Allora, ricordiamo la 17ª edizione della Giornata Mondiale della Poesia, dal titolo Siamo Fatti per l'Infinito, al Teatro Filarmonico a Verona, il 24 marzo prossimo. Patrizia, nel salutarci ci dai anche dei riferimenti internet, se ce li avete, dell'Accademia? Io non li so a memoria, chiedo scusa, non ho niente con me in mano in questo momento. C'è un sito internet, immagino. Ovviamente c'è un sito internet, Accademia Mondiale della Poesia, proprio completa la frase. Ecco, abbiamo Facebook, abbiamo Instagram, abbiamo Twitter, sempre con Accademia Mondiale della Poesia. Perfetto. Allora, un saluto e un ringraziamento a Patrizia Martello, in bocca al lupo. Grazie mille, grazie veramente di questa intervista, mi ha fatto molto piacere. A presto. Possibile, grazie. A voi, arrivederci.